Emerge in assemblea come tema, ma in realtà si è creata tanta attivazione sul lavoro sociale da un po', l'abbiamo visto quest'anno, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con appunto reti che si sono create per il rinnovo del contratto nazionale delle cooperative. Si è creata una rete qui a Bologna, l'Educatrice Arrabbiate, ma in realtà appunto si sono attivati dei processi proprio in tutta Italia. L'assemblea nazionale a Bologna e soprattutto il tavolo lavoro, dove organizziamo appunto lo sciopero anche insieme a sindacaliste, lavoratrici, eccetera, è stato molto partecipato. E soprattutto appunto da questo punto di vista del lavoro sociale, ed è partita da lì la proposta di organizzarci anche in un'assemblea online per coinvolgere ancora di più educatrici, lavoratrici del sociale, sindacaliste, ma anche andare oltre e cercare di coinvolgere poi utenti che danno bisogno di servizi di welfare. Insomma, l'idea era di fare rete verso l'8 marzo, ma anche andando oltre. E non solo appunto abbiamo avuto una forte risposta al tavolo lavoro in Assemblea Nazionale qua a Bologna, ma c'è stata una forte risposta anche all'assemblea che abbiamo organizzato online. Erano connesse 80 persone da tantissime realtà in Italia. E qui abbiamo aperto appunto un confronto su per cosa si vuole appunto scioperare l'8 marzo. In molte sono intervenute per condividere, cioè, le difficoltà che vivono in quanto lavoratrici del sociale e lavoratrici del welfare, ma anche come utenti. In tanti casi, appunto, queste sono anche lavoratrici essenziali. In generale è un lavoro molto sfruttato, c'è tanta precarietà. Quest'anno c'è stato il rinnovo del contratto nazionale delle cooperative, un rinnovo che comunque non ha visto cioè, scarsissimi miglioramenti delle condizioni lavorative, perché comunque si mantengono notti passive, si mantengono le banche ore. C'è un aumento salariale, ma è minimo e irrisorio, soprattutto se teniamo in considerazione l'inflazione. È un ambito che comunque riguarda veramente tante lavoratrici, dico lavoratrici perché questo settore è a maggioranza donne. Quindi, insomma, emerge questo tema del lavoro povero con salari bassissimi, un lavoro che spessissimo è anche molto volontario perché non, appunto, non si riconosce il valore del lavoro sociale, del lavoro di cura, è una professionalità e allo stesso tempo è considerata implicitamente un'inclinazione naturale delle donne. È un lavoro molto precario anche nei casi in cui c'è un contratto a tempo indeterminato, non c'è garanzia di reddito, non c'è garanzia di luogo di lavoro, gli orari di lavoro sono appunto massacranti, i ritmi del lavoro in generale sono sfiancanti e questo ricade su ovviamente chi lavora, causa malattie, causa frustrazione, causa burnout e allo stesso tempo le cooperative sono anche diventate luoghi di lavoro che sono sempre più repressivi, controllanti, perché sono sempre più grandi, sempre di più si verificano dinamiche da grandi aziende. Le lavoratrici ci raccontavano appunto di dinamiche di controllo, di verticismo, di mobbing e in tutto ciò spesso questi sono servizi essenziali e quindi c'è tanta difficoltà anche appunto a scioperare. Ora, la difficoltà a scioperare è legata alla precettazione, è legata però anche al vivere un ricatto troppo forte e quindi non potersi permettere di scioperare, è legato anche al fatto che esistono dei contratti che non prevedono questo diritto di sciopero. Questo è quello appunto di cui abbiamo discusso nell'assemblea online, è stata un'assemblea ricchissima, si è deciso di scioperare proprio contro tutto questo, contro queste condizioni del lavoro terribili. Noi qui a Bologna comunque queste cose che ti ho appena detto le vediamo benissimo nelle lotte delle lavoratrici del Sant'Orciola che abbiamo cominciato a seguire appunto in vista dell'8 marzo e oltre. Sono lavoratrici e lavoratori esternalizzati, si occupano di pulizia, di sanificazione dell'ospedale, trasporto materiale biologico, insomma, lavoro essenziale per la riproduzione della struttura ospedaliera. Sono in stato d'agitazione da circa un anno e il punto è che da un lato appunto questo lavoro è essenziale, perché senza questo lavoro non esiste il servizio sanitario che il Policlinico Sant'Orciola come ospedale eccellente offre. Allo stesso tempo vi è un lavoro che viene svolto in condizioni che sono ormai in che sono peggiorate nettamente con il cambio cooperativo e con l'arrivo della pandemia. Ci sono salari che sono sempre più bassi, la mancanza di materiale e strumentazione adeguata, che è un problema terribile perché comunque si tratta di lavoratrici anche delle pulizie che non avendo strumentazione adeguata non possono né sanificare correttamente i luoghi dell'ospedale, ma che corrono anche proprio rischi a livello personale. Hanno assistenza sanitaria a proprio carico e ci sono state appunto decisioni arbitrarie dei responsabili della cooperativa su turni e permessi e anche appunto istanze di intimidazioni contro chi ha deciso di non accettare queste condizioni e di appunto lottare. Sono lavoratrici e lavoratori, ci sono appunto tante lavoratrici, sono donne, sono in prevalenza migranti, questo appunto sappiamo benissimo cioè non essere un caso perché appunto le donne sono considerate naturalmente predisposte, no, a svolgere lavoro casa, un lavoro che dentro casa è gratuito, fuori casa invece è sfruttato, è essenziale. E allo sciopero che si è organizzato, cioè che è organizzato a Viale Cobas il 5 febbraio, le lavoratrici urlavano uno slogan che molto risuonava con uno slogan che anche noi abbiamo urlato tante volte l'8 marzo. Loro dicevano: se ci fermiamo noi si ferma l'ospedale. Effettivamente lo slogan dell'8 marzo: se ci fermiamo noi si ferma il mondo. Sono condizioni invisibilizzate da tanti punti di vista, sia nel lavoro, sia dal punto di vista di provenienza, genere, no? E questo si scontra ed è, viene ulteriormente peggiorato dai tagli ai servizi sociali, sanitari ed educativi, da un welfare che sta decadendo sempre di più, no? E quindi evidentemente l'8 marzo è un momento in cui nelle piazze, ovviamente anche dopo, si andrà a lottare contro questi tagli da parte del governo, e non è solo quest'ultimo governo, diciamo, no? No, certo, assolutamente. E infatti è un po' l'altro pezzo del discorso. Il lavoro sociale da un lato ci permette appunto di ragionare su quali sono le condizioni in cui si lavora quando si fa il lavoro di cura salariato, e dall'altro queste condizioni di lavoro terribili, il sottofinanziamento del welfare, producono e hanno delle conseguenze terribili per chi poi deve accedere, no, a questi servizi anche come utente. E ovviamente il problema non si ferma qua, perché appunto abbiamo tagli ai servizi, condizioni di lavoro, sfruttamento, servizi quindi e welfare insufficiente, e il lavoro di cura viene scaricato sulle famiglie, nella maggior parte dei casi sulle donne, che appunto si ritrovano con un carico di lavoro enorme, che è un lavoro che si svolge dentro casa, che non è riconosciuto, che non è pagato, che poi ha delle conseguenze sul tipo di lavoro che svolgono fuori casa, sulla loro autonomia economica. E tra l'altro un altro paradosso che vediamo quando andiamo oltre le condizioni di lavoro dentro il lavoro sociale, guardiamo anche al welfare, è che spesso chi lavora dentro questi servizi e le persone che accedono a questi servizi si trovano a vivere condizioni di marginalità che sono simili. Penso per esempio a qua a Bologna all'impossibilità di accedere alla casa, ma anche alla condizione delle donne migranti, che in questo caso sono spesso utenti, ma spessissimo anche lavoratrici in questo settore. E donne migranti comunque subiscono il ricatto del permesso di soggiorno, che le costringe appunto ad accettare condizioni di lavoro che sono pessime, con salari che non possono appunto far fronte all'inflazione, ma allo stesso tempo limita anche l'accesso ai servizi di base. E quindi che apre una serie di contraddizioni questo sguardo qua che stiamo dando verso l'8 marzo quest'anno. Come dicevi tu, appunto, i tagli al welfare costituiscono un problema, perché il lavoro ricade sempre più sulle spalle delle donne, perché i servizi sono sottofinanziati, e questa cosa qua non è casuale, ma è parte del programma di governo della Meloni. Cioè, l'abbiamo visto appunto nella legge di bilancio, che è una legge che rafforza la famiglia, pensa alle donne come figure che erogano lavoro di cura non pagato, e che è una misura fortemente ideologica. Cioè, pensiamo solamente a tutti i bonus, alle detrazioni, alle misure che sono previste per le famiglie. Non è un caso che siano previsti dei bonus, dei premi per riprodurre la famiglia eteropatriarcale bianca, e sono una copertura per appunto avanzare con questo definanziamento del welfare. E che a questo proposito mi viene in mente una cosa, cioè nel senso, a noi spesso ci viene detto e veniamo tacciate di essere transfemministe, e quindi ideologiche. Quello che è importante far passare quest'anno è che in realtà queste misure sono ideologiche, sono misure che hanno un impatto reale, che impongono l'ideologia Dio, Patria, Famiglia, che non è un'ideologia ma che ha proprio delle conseguenze reali sulle nostre vite materiali. E quindi da un lato c'è questa ricaduta sulle donne che fanno lavoro di cura dentro le case, perché appunto ci sono i tagli al welfare, e dall'altro i tagli al welfare sono attivamente perseguiti dal governo. Pensiamo per esempio a misure come l'autonomia differenziata, che distruggono il welfare, che aumenteranno ancora di più il tra nord e sud, e che porranno veramente tanti problemi e che avranno una ricaduta terribile appunto.